Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 28 ottobre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che, come sapete da quelli che ci seguono da sempre, fa da ponte tra il carcere e la città e quindi collega notizie che parlano di carcere, ma ovviamente parlano anche della nostra realtà circostante. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma, con la mia collega Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Siamo sempre in onda su Radio Città Fugico alle 9 del mattino e poi Lepida TV dalle 13 alle 14 e Teletricolore dalle 17 alle 18 e in replica alle ore 17 sempre su Lepida TV. Ma notizie di oggi, parliamo di Milano dove c'è una notizia bellissima, lo smart working arriva in carcere, progetto pilota del penitenziario di Bollate. Lo leggo dalla Repubblica a firma di Simone Bianchin ed è una notizia, dicevo, strabiliante perché in luoghi insospettabili, come per l'appunto le carceri, arrivano i computer con connessioni internet protette in cella. È una novità questa che vede coinvolti 90 detenuti al lavoro da remoto con i computer dall'interno del carcere. Con questa iniziativa sarà quindi possibile lavorare in smart working, sì, avete capito bene, in smart working dal carcere, tutto questo accade a Bollate grazie a una connettività ad internet ovviamente protetta ed esclusiva per le persone che sono ristrette. Si tratta di un progetto sperimentale reso possibile dalla Fondazione Vismara, che ridisegna i confini del lavoro in carcere e quindi apre nuove prospettive sull'utilizzo di internet dietro le sbarre, che come sapete fino ad ora era vietato assolutamente in ogni modo, e quindi questo anche con l'obiettivo, questo progetto, di contrastare l'emarginazione digitale. È un'idea innovativa e rivoluzionaria al tempo stesso, ma qual è il fine ultimo per le persone recluse? Il fine ultimo di questo progetto, che ha ottenuto tra l'altro anche il finanziamento da parte della Regione Lombardia, è quello di promuovere il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso una strumentazione e una connessione ad hoc. Al momento coinvolge, dicevo, 90 persone del penitenziario che sono a lavoro da remoto con i computer dall'interno del carcere e pensate che già a febbraio di quest'anno 64 persone ristrette si occupano della gestione operativa di un call center che offre servizi al mondo delle imprese. Ma ora questo progetto è in fase di ampliamento e prevede nel corso di questo mese di ottobre la sperimentazione per l'appunto dello smart working per percorsi di inserimento lavorativo verso l'esterno a favore di 64 detenuti coinvolti nelle attività di formazione. Non c'è niente da dire, Bollate è sempre all'avanguardia. Senti, e in che cosa consisterà l'ampliamento della sperimentazione? Allora, verranno attivate opportunità lavorative all'interno dell'istituto con 10 percorsi lavorativi per il momento che dureranno 12 mesi, seguendo altrettanti nuovi percorsi di inserimento lavorativo che riguardano persone che si trovano in regime di esecuzione penale esterna, oltre ad altre 20 postazioni di lavoro che la cooperativa ha creato presso una propria sede esterna a Cologno Monzese. Come suggerivi tu, Antonella, grazie alla lungimiranza della direzione dell'Istituto di Bollate, che ha come direttore Giorgio Leggeri, è stato possibile realizzare un protocollo straordinario di intervento che sta consentendo di sperimentare questa nuova modalità di lavoro a domicilio, fondato sull'accesso a forme di connettività alla rete internet da remoto, nel rispetto dei limiti di sicurezza previsti dall'amministrazione penitenziaria. Tutto questo progetto delle connessioni da remoto in cella rappresenta un'autentica rivoluzione, come dicevi tu all'inizio, per quelli che sono i canoni dell'universo penitenziario, oltre a essere una nuova chiave, diciamo, interpretativa per l'approccio al tema del lavoro in carcere. Cioè, questo permetterebbe a chi è in carcere di lavorare, continuare il suo lavoro con un computer, considerato che ormai all'interno del carcere da tanti anni il problema del lavoro esiste, c'è e pochissime persone possono lavorare. Pensate in quante potrebbero lavorare di più con lo smart working o col computer. Pensate che i primi risultati di questo progetto, dopo sole 360 ore di formazione erogata per 64 persone, ha portato all'assunzione di 20 detenuti presso le aziende per le quali avevano lavorato da remoto. Una bellissima notizia, non ci rimane che concludere anche oggi la prima parte della nostra, del nostro programma con un brano musicale, U2 con Sunday, Bloody Sunday. Ci rivediamo tra pochissimo. Eccovi, ben ritrovati dopo la pausa musicale sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Parliamo in qualche modo con te, Antonella, di storia, possiamo dire di storia, perché dopo un bel po' di anni si riapre un caso. Sì, infatti hai ragione, Caterina. Parliamo del caso che si apre dopo 34 anni della morte di Thomas Sankara. E Thomas Sankara ha governato il Burkina Faso solo per 4 anni, dal 1983 fino alla sua morte il 15 ottobre del 1987, ma il suo nome è circondato da una potente mitologia, diciamo più simile a quella di Che Guevara che a quella di Nelson Mandela. E Sankara ispira ancora oggi una gioventù africana orfana di un'utopia federatrice. Mi ricordo che ne avevi già parlato qui su Edu Radio ed è un personaggio, Sankara, che ha una storia molto particolare, anche lui è molto particolare. Sì, e diciamo che ho letto un articolo di uno scrittore e giornalista, Pierre Aschi, che ha avuto l'occasione di intervistare diverse volte questo ufficiale dei paracadutisti che governava dando semplicemente l'esempio. Ti dico soltanto così un aneddoto. Sankara aveva venduto le limousine della presidenza sostituendole con una flotta di Renault 5, tanto per dire, ed era tanto puro quanto duro, anche se ovviamente un po' come tutti aveva le sue zone d'ombre. Trentenne, pieno di senso dell'umorismo, sapeva mostrarsi diretto e pedagogico per mobilitare gli abitanti dell'Alto Volta, come si chiamava inizialmente il Burkina Faso, da lui appunto chiamato Burkina Faso perché significa il paese degli uomini integri, tanto per dire. Il suo omicidio ha sconvolto e traumatizzato l'Africa del tempo ed evidentemente ancora oggi si sente il bisogno di capirne le motivazioni e il movente, anche perché al suo posto poi si è installato il suo fratello d'armi, che addirittura Sankara chiamava veramente fratello, il capitano Blaise Compaoré, che di fatto però puntava a sostituirlo. Pensa che quest'ultimo è stato al potere per 27 anni ed è stata necessaria la sua caduta e il suo esilio, tra l'altro, per far cominciare il processo che si è aperto l'11 ottobre, ma che è già stato spostato al 25, a Ouagadougou, la capitale appunto del Burkina Faso, dove però purtroppo il principale accusato, Compaoré, non ci sarà perché è in esilio all'estero. E quindi stiamo parlando chiaramente di un rapporto, quello tra Sankara e Compaoré, naturalmente deteriorato, no? Eh sì, perché rifacendoci sempre a Pieraschi, che aveva intervistato anche con Paoré nell'ufficio della presidenza per il quotidiano Libération, giusto 3 giorni dopo la morte di Sankarà, ci racconta che era stato accolto in piena notte in una città ancora sotto coprifuoco e compare affranto aveva detto non volevo la sua morte, che è una frase un po' ambigua se ci pensiamo, può essere interpretata un po' come una confessione, ma anche forse semplicemente come una manifestazione d'affetto. E durante quell'intervista notturna compare, in divisa da paracadutista, aveva confessato di essere convinto che Sankarà volesse farlo arrestare e giustiziare e che gli aveva chiesto delle prove, e questo chiaramente già ci fa vedere la situazione in un modo diverso. Una domanda che ci sono fatti tutti è: Parigi era informata di ciò che stava per accadere? E se così fosse, ha autorizzato l'omicidio? Beh, questo processo forse permetterà di scoprire qualcosa in più sulle condizioni e sulle intenzioni dietro quel fatto di sangue, però è anche molto difficile capire i possibili legami internazionali se Campare non si presenterà al processo. E ovviamente gli interrogativi sono multipli. Diciamo che emergono due punti un po' contrastanti che hanno a che fare con due presidenti. Uno è l'ivoriano Félix Oligui Boigny, profondamente irritato dal carismatico capitano Sankarà, e anche quello francese. E questa infatti è la domanda ricorrente: ma Parigi era informata di quello che stava per accadere? La risposta non si trova sicuramente sui documenti declassificati che la Francia ha inviato al Burkina Faso. E, un anno prima della morte di Sankarà, il presidente francese dell'epoca, che era appunto François Mitterrand, si trovava in visita nella capitale del Burkina Faso, e durante la cena ufficiale, che era stata segnata un po' da uno scambio di punti di vista tra il giovane ufficiale e il vecchio capo di Stato Mitterrand, e quest'ultimo aveva commentato l'approccio antiimperialista di Sankara dicendo: è un uomo un po' fastidioso il presidente Sankara, ti provoca, pone domande, con lui non è facile dormire in pace e non ti lascia la coscienza tranquilla. In effetti, Caterina, dopo 34 anni, Sankarà continua ancora a turbare i sogni di molti, in attesa appunto che la giustizia possa chiudere finalmente questo increscioso capitolo. E per restare in argomento un po' paura, ma Mannarino ci dice non abbiate paura, ascoltiamo la sua canzone, Mannarino Paura. Nelle latrine. Chissà se c'è riuscito mai qualcuno a non perdere il profumo. E quando passa una stella cadente, tu non chiedi niente, e ne hai passate così tante che non racconti niente, che quando provi a dire una parola esce un mostro dalla gola. E intorno ai tuoi passi non c'è più nessuno, davanti ancora braccia, dietro solo fumo. Ma non avere paura alcuna, non avere paura alcuna, non avere paura, non avere paura alcuna. Sistema. Ah, se fossimo in tanti, se fossimo in tanti, saremmo il sistema. E poi, quante volte hai sorriso mentre piangevi il cuore, quanto odio hai sentito mentre facevi l'amore. E adesso sei quello che guarda giù dalla finestra, chissà se c'è un'altra vita dopo di questa. Chissà se ti aspettavi una fine diversa, ma non avere paura alcuna. Rieccoci, bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici sempre su Liberi Dentro di Radio TV. L'ospite di oggi con noi per tutta la settimana è Giulia De Rocco, dottoranda in scienza dell'educazione. Ciao Giulia. Buongiorno a tutte e a tutti. E l'argomento che ci trascineremo, anzi che affronteremo in questa settimana è la lettura in carcere. Ieri ne abbiamo un po' parlato, ma parliamo di un aspetto che tu, anzi del tuo laboratorio all'interno del carcere di Verona. Come ti è venuta in mente l'idea di avviare un laboratorio di lettura all'interno del carcere? Allora, l'idea mi è venuta facendo la mia tesi magistrale in letteratura, perché ho avuto la fortuna di trovare un docente che mi ha supportata in questa mia pazzia di provare a capire quale fosse la biblioteca ideale di un carcere, quindi quali potevano essere i titoli. E ho fatto questa ricognizione attraverso delle interviste a delle persone detenute o ex detenute e anche studiando quali erano le esperienze già esistenti non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale su questo tema, e effettivamente cercando esperienze ho letto molte indicazioni che docenti, volontari, facilitatori di gruppi di lettura davano per avviare e organizzare e facilitare un gruppo di lettura in carcere, con dei conseguenti studi su quali erano le conseguenze positive di questa attività in carcere. E dopo aver raccolto tutto questo materiale, io facevo la volontaria all'Associazione della Fraternità di Verona, dove avevo fatto anche servizio civile, e insieme in associazione abbiamo pensato che potevamo avviare una sperimentazione. E ho iniziato facendo dei gruppi di lettura in collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, quindi per le persone affidate o ai domiciliari. E sono state delle esperienze molto belle, perché anche il periodo della detenzione domiciliare non è un periodo facile, è un periodo di reclusione, diciamo, a tutti gli effetti. Quindi è stata un'esperienza molto bella. Io penso che anche per le persone che sono in affidamento ai servizi sia molto importante costruire dei momenti che non siano solo dei tirocini, delle cose che riguardano l'inserimento lavorativo, la continuazione del proprio percorso lavorativo, ma anche delle esperienze che aiutino un attimo a riempire il tempo in modo altro. E poi ho fatto dei gruppi di lettura con le donne detenute. E ecco, è stato molto bello, poi magari ne parleremo più approfonditamente, però l'idea mi è venuta dalla mia tesi magistrale, per risponderti in modo sintetico. Senti, ma Giulia, siccome si tratta di una sperimentazione, mi hai detto, no, del laboratorio di lettura in carcere, come hai fatto ad avviarlo? In cosa consisteva il tuo programma? Hai scelto dei libri? Ti sei data un programma, tot libri in tot tempo, chiedo a loro consigli? Come ti sei comportata da questo punto di vista? Allora, è stata una sperimentazione all'inizio, poi è diventata un'attività che abbiamo proseguito, che abbiamo ripetuto varie volte negli anni. Il laboratorio consiste in questo. Siccome partecipano persone anche di culture diverse, di lingue diverse, soprattutto in carcere, fuori mi è successo più spesso di avere dei gruppi formati da persone che avevano una buona padronanza della lingua italiana. In carcere è più possibile, e io ci tengo molto che la situazione sia molto inclusiva anche per le persone che non parlano o che non leggono bene l'italiano. Allora, inizialmente ho sempre scelto dei libri che io ho voluto proporre loro, soprattutto nei primi incontri, però nello specifico dei testi tratti da libri, testi poetici, testi tratti da saggi, testi tratti da capitoli di libri, racconti, quindi un testo che effettivamente potevamo leggere anche ad alta voce insieme. Quindi era un gruppo di lettura non tanto su dei testi narrativi che leggevamo insieme durante un arco di tempo che concordavamo, come sono più frequentemente i gruppi di lettura, ma dei gruppi di lettura in cui leggevamo insieme un testo e ne discutevamo. Questa è stata una formula molto efficace, perché riuscivo a avere lo stesso testo anche in lingue diverse, perché magari cercavo delle traduzioni, e ha permesso uno scambio veramente molto interessante. È successo anche di leggere insieme dei libri, ma è una cosa po' più complicata in carcere perché bisognerebbe avere tante copie dello stesso libro, perché altrimenti le detenute dovrebbero leggerlo o i detenuti dovrebbero leggerlo un giorno a testa. Quindi questo non è, organizzativamente è un pochino più complicato, però anche leggere insieme i testi poetici per esempio sono molto molto efficaci perché riescono ad arrivare molto velocemente ad unire il gruppo intorno a dei sentimenti, delle emozioni, dei vissuti. E che cosa ti aspettavi prima di iniziare il laboratorio? Anche le tue aspettative riguardo a magari presunte gioie prima di affrontare questo laboratorio o magari delusioni? Cosa ti aspettavi prima di iniziare il laboratorio? Ma sinceramente non so se veramente avevo delle aspettative. Avevo un po' di preoccupazione di magari ad arrivare a toccare dei punti che con la mia professionalità non riuscivo poi a, come dire, a supportare, perché magari erano troppo dolorosi, perché magari, come dire, slatentizzavano, tiravano fuori delle questioni che vanno, come dire, in profondità e approfondite con dei professionisti che hanno delle capacità delle competenze diverse, no? Quindi questa era una preoccupazione che mi ha sempre accompagnata e sulla quale io vigilo molto. Infatti mi è successo poi di segnalare anche, di parlare con le persone e pensare insieme a loro di rivolgersi a dei professionisti per, come dire, trattare questo tipo di questioni. Quindi questa è sempre stata più che un'aspettativa, una preoccupazione. Io voglio sempre, come dire, specificare che non è una seduta di terapia di gruppo, che non è un momento in cui insieme possiamo affrontare delle cose che magari fanno troppo male, ecco. Quindi un pochino che tutta la macchina del carcere rallentasse un pochino i tempi. Quindi all'inizio mi ricordo che ho sbagliato molto, per esempio, con i tempi, no? Avevo preso un'ora e mezza, in realtà riuscivo poi, per le questioni ovvie che riguardano una struttura complessa come il carcere, riuscivo a fare poco tempo. Quindi sì, alcuni aggiustamenti, alcune preoccupazioni e alcuni aggiustamenti organizzativi. Ho capito. Giulia, per rimanere un attimo in tema sempre musica, perché rilancio sempre canzoni che si allacciano all'emozione della gioia di quando si legge, una canzone, Domenico Modugno nel Blu dipinto di blu, e li ritorniamo tra pochissimo con te. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba. E rieccoci, bentornati, sempre con Giulia De Rocco, riprendiamo il nostro tema lettura in carcere, e sempre riguardo al tuo laboratorio in carcere, Giulia, hai notato, il laboratorio di lettura, hai notato che leggere incide sulla capacità di relazionalità delle persone, sono poi portate a raccontare le loro storie, a confrontarsi a vicenda? Sì, una delle cose che è stato anche poi scientificamente dimostrato è che proprio a livello di come funzionano le nostre menti, i nostri cervelli, proprio a livello biologico, leggere delle storie produce degli effetti che portano appunto a processi di rispecchiamento e attivano la possibilità di riflettere su alcune questioni e certamente leggere insieme, come dicevamo anche la volta scorsa, costruisce delle relazioni più profonde, nel senso che certamente anche le persone che stanno in cella assieme o che sono nella stessa sezione magari hanno delle occasioni di confronto e di approfondire delle cose delle loro vite che sono molto molto importanti e non sono, come dire, il gruppo non sostituisce niente di tutto questo, però è un'occasione in più, no? Magari di affrontare alcune cose da un punto di vista diverso e soprattutto da un punto di vista che piano piano, attraverso la discussione insieme, si modifica un pochino, oppure una persona dice una cosa che non avevi mai pensato e quindi poi durante il giorno sono cose che si sedimentano e che magari offrono dei piccoli spunti di riflessione e innescano dei micro processi di cambiamento. Giulia, grazie. Io invito sempre i nostri ascoltatori a scriverci redazionelibridentro@gmail.com se hanno delle domande, oppure il tuo indirizzo email per quanto riguarda te. Puoi darlo tu? leggerelibera@gmail.com. Grazie e ci rivediamo domani. A prestissimo. A presto. Ben ritrovati dopo aver ascoltato la nostra Giulia De Rocco con queste interviste che stiamo facendo sulla lettura all'interno del carcere. A fra poco con le rubriche, le consuete rubriche Pillole di Antigone che presenta l'Osservatorio Europeo sulle Carceri e poi a seguire la Comunità Educante per i Carcerati che propone un estratto dalla trasmissione Le Iene raccontando un viaggio nel mondo del carcere dal Brasile all'Italia. Vi ricordiamo sempre di iscriverci, redazionelibridentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna per la posta cartacea. E come al solito un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese e da Nea Flacco, sempre con un grande ringraziamento per il montaggio di queste puntate e ci rivediamo domani. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.